Yes People, questo è Jolly Roger. Questo è Jolly Roger. Buonasera a tutti e a tutte gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano. Salutiamo tutti i colleghi, salutiamo soprattutto le amiche del GAS, con le quali condividiamo lo spazio. Un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici del Brancaleone. Siamo stati fermi settimana scorsa per diversi impegni e quindi oggi ovviamente bisognava tornare belli carichi. Una puntata ricca, siamo orfani, diciamo così, per questa puntata del nostro amico Matteo, che si trova in villeggiatura in quel di Venezia, ma con i potenti mezzi di Pirate Radio. Più tardi lo chiameremo per un breve saluto, non vorremmo distoglierlo dalle sue visite, visto che è in quel di Venezia. E saluto anche Radio Grad, che ci ritrasmette tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18, e non posso non nominare tutti gli amici e tutte le amiche di Gemini Network. Quindi iniziamo questa nostra puntata, una puntata in cui parleremo di clima. E settimana scorsa appunto siamo stati fermi, quindi visto che è partita ufficialmente la primavera, abbiamo detto, sai che c'è di nuovo? Ne parliamo oggi tutti quanti insieme a Jolly Roger, quindi ce ne sarà da raccontare. E partiamo col primo pezzo, un pezzo che ho scelto perché mi è particolarmente a cuore ed è una combo molto strana, è un Piero Pelù con Alborosi, il pezzo nuovo si chiama Musica Libera e noi lo passiamo e ritorniamo a breve. Mille una nota mi girano in testa, polvere, ferro, vento, tempesta, cieli azzurri, nuvole, stelle, ballo, ballo e tutto s'accende. Ieri mi sentivo in cima a un grattacielo, oggi giù nel bunker sotto il piano zero. Quello che voglio sembra fake, invece è vero. E ci stai dentro tu, noi siamo come voi, voi siete come noi. La musica ci libera, scatena dentro un cinema, il cielo su di noi, forse in te ci crederei. Che la musica ci libera e tutto il mondo suonerà. Guardo lo specchio e vedo un'altra faccia, il mio ego lo cerco in un pagliaio. Il ritmo, sono equilibrista, gioco a scacchi con l'incertezza. Le regine e i re sorridono, io non resto nel mio angolo. Condividi se ti piace, scacco matto per chi tace. Noi siamo come voi, voi siete come noi. La musica ci libera, scatena dentro un cinema. Il cielo su di noi, forse in te ci crederei. Che la musica ci libera e tutto il mondo canterà. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Da Roma alla Giamaica, la musica ci libera. To all the foolishness me hear them say, and we no wonder where we there. Come me and them, we can be no friend, no friend. Noi siamo come voi, noi siamo come voi. Voi siete come noi, voi siete come noi. La musica ci libera, scatena dentro un cinema. Il cielo su di noi, forse in te ci crederai. Equilibrista. E questo è il primo pezzo che passiamo con Jolly Roger, un pezzo nuovo, musica libera, Piero Pelù Alborosi. Per me è un pezzo molto piacevole. E quindi iniziamo questa nostra nuova puntata, questa nostra chiacchierata con Alice e con Luchino. Questa puntata mancherà non solo Matteo, ma anche Lucone. Inizia la primavera, iniziano gli impegni, però noi proseguiamo a fare il nostro con Jolly Roger. Allora, noi, tema della puntata abbiamo detto il clima, c'è cioè il famoso detto: signora mia, non esistono più le mezze stagioni. È il caso di dire che è proprio così. Non esistono più le mezze stagioni perché ormai si passa da temperature sempre più calde a temperature sempre più fredde. E ovviamente il fisico ne risente, l'umore ne risente, quindi c'è tanto disagio in giro dovuto al clima, perché molte persone sono anche meteoropatiche, e ne risente il fisico che quest'anno fa senza mascherine. Almeno io personalmente ho beccato un raffreddore che mi è durato solo 6 mesi, però è andata come è andata. E quindi niente, passo il mic al nostro amico, alla nostra, anzi, facciamo parlare prima le donne per educazione, giusto Luca? Perfetto, Sì. allora Alice, ti passo il mic e vai, tanto noi ci siamo fatti una ricca chiacchierata nel frattempo al sole, belli, abbiamo preso un caffettino, siamo rilassati, ora iniziamo questa chiacchierata. Dai, Allora, oggi parliamo del clima e del clima mite. E il clima mite è un clima molto caldo, tipo per esempio d'estate fa molto caldo e l'inverno fa molto freddo, come ad esempio sopra il Polo Nord fa freddo perché praticamente ci abita Babbo Natale, ovviamente. Ovviamente, Babbo, che fa? Non Ovviamente. salutiamo anche Babbo Natale? Ecco. Caro Babbo Natale, a te tutta la Groenlandia, saluti e abbracci da Jolly Roger, ovviamente. Però diciamo al Polo Nord ci abbiamo un clima molto freddo e al sud ci abbiamo un clima molto caldo perché c'è diciamo metà freddo e metà caldo. Ora, non c'entra niente, però entro a gamba tesa. A te che clima piace? Però il mio clima, diciamo, è il mio preferito ideale, è la mia estate, perché mi piace il caldo, mi piace andare al mare, mi piace fare i bagni, diciamo, mi Prima piace dicevi una tutto. cosa, visto che appunto, come dicevo prima, un po' ne avevamo chiacchierato inizialmente, che tu sudi poco. Io sudo poco, però sento poco caldo, ma sudo sotto l'ascelle, ma è Ov normale perché. ovviamente, che famo? Almeno le ascelle famole sudare, giusto? Se non suda tutto il corpo, ma le ascelle le facciamo sudare. Ma poi io mi faccio la doccia, ovviamente, E no? beh, vedi un po'. Non ho capito. E quindi dicevamo invece dell'inverno. Invece dell'inverno, diciamo, il clima è un po' più nuvoloso, un po' piovoso, un po' più come diciamo, un po' come la primavera, più o meno, diciamo, ma è un clima particolare, Sì, particolare. infatti quest'anno a Roma ha piovuto abbastanza, sono state giornate belle È fredde, anche un clima molto ventoso, e diciamolo. diciamolo, perché è anche un clima molto ventoso, perché c'è tanto vento, l'inverno tira tanto vento, freddo, freddo, freddo, freddo, e anche forte freddo, un friscolio che ti arriva proprio dalle orecchie al naso, ti gira tutto il naso, tutto quanto è un casino. È un casino, signora mia. Detto questo, passiamo il secondo pezzo di Jolly Roger. È un pezzo anche questo nuovo che abbiamo ascoltato con il nostro amico Matteo, che non è presente, ma al quale dedichiamo. È un pezzo che è una combo anche questa molto strana fra Blanco e Mina. Al viale giocava a pallone sulla strada sterrata che mi è cresciuto. Dove il cielo è bordeaux, immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente. Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro. Un sentimento puro, noi non ho futuro se ti perdo. Poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita. Scriverei una poesia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. per distinguere l'amore dalla follia. Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro. Un sentimento puro, noi non ha futuro. Se ti perdo, dai la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto. Ma per fortuna che poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna. Forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita. Scriverei una poesia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Io non mi ricordo chi siamo, per un briciolo di allegria. E questo è il pezzo nuovo di Blanco e Mina, un pezzo molto interessante anche questo. Insomma, siamo tornati, come avevamo detto a inizio puntata, belli carichi e belli motivati, e nonostante tutto continuiamo a parlare di clima, giusto Luca? Sì. Allora, Alice ci raccontava del suo clima ideale. Ora anche tu parla su qual è il tuo clima ideale, le tue temperature ideali, cosa ti piace e non ti piace di questo clima, che, come si diceva prima, signora mia, non esistono più le mezze stagioni. Allora, a me piace l'estate, in cui possiamo andare a farci il bagno al mare, in piscina. Poi possiamo giocare direttamente a racchettoni e fare molte cose. Poi la cosa che mi dà fastidio è prendere ma tanto tanto caldo sulle spalle, che ti bruci tanto e poi non puoi neanche prendere il sole, ma per fortuna esiste la crema solare. Esatto, noi parlavamo infatti, tornando un po' a monte delle nostre chiacchiere pre-puntata, si parlava appunto che comunque è un sole che brucia, un sole che è violento, un sole che non fa bene né alla pelle né alla campagna, quindi alla natura, agli animali gli stessi. Esatto, Alice infatti dice che lei per combattere i raggi ultravioletti va in piscina, ovviamente, però mi raccomando, qua è crema protezione alta. Detto questo, appunto, cioè anche questo modalità di sole che scalda sono modalità che sono più violente rispetto a anni fa. Poi una volta mi sono bruciato alle spalle, che giustamente sono stato a letto senza andare in piscina a prendermi un bel sole, che sono rimasto ben due giorni fermo a casa, e mi sono messo anche la prep per farmi riprendere. Perfetto, perfetto. E che fa, non usi la prep? E invece tu dici, raccontaci cosa ne pensi del clima, cosa abbiamo parlato un'ora e 500.000 secondi, quindi vai. Allora, del clima, invece, per quello freddo, mi piace, ma poi, come in questa primavera ho visto, invece per il clima vedo che in alcuni paesi fa molto ma molto caldo e in alcuni fa molto freddo. Tipo? Tipo se vai nei paesi, tipo in Islanda fa molto freddo perché là la temperatura è molto bassa, quindi non c'è tanto sole, è tutto nuvoloso. Esatto, e c'è anche il fenomeno dei ghiacciai che si stanno sciogliendo. Mentre se vai in, non lo so, tipo, mentre questa primavera, durante la Pasqua, in Abruzzo ha nevicato, che non ha avuto senso. Esatto, quindi quando si parla anche di cambiamenti climatici si parla anche di, appunto, di previsioni che non corrispondono a quelle che è la realtà. Detto questo, passiamo a un pezzo che ha scelto la nostra Elenuzza. Il clima cambierà, un pezzo di Cranio. Sputando ciò che non ho tu in sesta. Fa che parlino pure, mi restano sotto mentre valico dure. Io che per sto posto ho lottato per lune, scalato le alture, più ilte per toccare il cielo. Ne vedi le stelle che segnano il nostro sentiero. La strumentale è il destiero, le mie parole il guerriero. E dicono che le ossa doloranti da questa mattina, dopo l'operazione di un po' di anni fa, il grigio si allontana dalla mia cucina, e questa nuova luce so che mi dirà che il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, la mia gente lo sa, che il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà. Come teste di tartaruga, testuggine, infeste sotto la luna a distruggermi. Testavo cure che non erano cure, provocando lacune che c'ho in testa e ruderi. Mi piaceva illudermi, fosse tutto un gioco con i frate e i bimbi in momenti ludici. Noi, ma è un momento lucidi e credibile davvero che ne faccia un vanto, quando per restare intero mi reggevano in quattro, folgorando verso casa come per Damasco, come per San Paolo, ma tutto fuorché santo. Ero cieco ma adesso vedo, vedo, sto con la mia gente su sto treno. Ci davano per deportati ma gli ho dirottati piani, ora per gli schiavi sono un condottiero. Fratelli di una vita se ne vanno prima, per quanto lo sapessi quanto male fa. Io non c'ho soluzioni ma c'ho una matita, ogni volta che scrivo so che griderà. E il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, la mia gente lo sa. Il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà, la mia gente lo sa, il clima cambierà, il clima cambierà, il clima cambierà. E tu dai sempre di più, anche se cadono i muri, prendi mattoni, rimettili su, crescono fiori anche nelle paludi, quando nel petto non senti più niente. È lì che ti presto uno stereo, perché sta musica è un siero potente, scaccia fantasmi e riporta il sereno. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, puntata speciale questa per noi del 28 di aprile. Partita ufficialmente anche qua a Roma la primavera, sono un paio di giorni che fortunatamente si iniziano a scaldare le giornate e c'è questo bel sole che ci accompagna durante la giornata. E, ora ripasso il mic sia a Luca che ad Alice. Nel frattempo, colpo di scena, proveremo a chiamare il nostro amico Matteo con i potenti mezzi di Pirate Radio. Invece per questo weekend E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Parlavamo appunto di cambiamenti climatici. Ripasso il mic alla nostra amica Alice. Diciamo, questo clima è molto, quando è molto freddo, sempre tra Ah, caldo e detto freddo. questo, noi parlavamo per l'appunto di clima. Ad Alice gli piace non solo il mare, ma anche la montagna. Anche la montagna mi piace, però solamente è che quando si nevica c'è anche il ghiaccio, un po' di ghiaccio. Bisogna sempre stare attenti a camminare perché c'è anche un po' di ghiaccio. E Ci siamo. quest'anno, esatto, sei stato, prima parlavamo che di solito te vai a fare le camminate in montagna e quest'anno ti sei accorto che ha nevicato. Ha nevicato poco, ma sopra le montagne, un po' più in lontananza, le montagne, ma nelle montagne quelle un po' a punta, un po' Quindi curvate, diciamo, ha basse. nevicato semplicemente nei posti proprio alti, diceva, rispetto a quando, esatto, andavi 2 anni fa a fare le camminate, quest'anno doveva fare le camminate tu, non c'è più neve. Che diciamo che è l'altro anno, diciamo sono quasi tutti gli anni che ci vado perché ci andiamo io, mamma e papà e mia sorella. Perfetto. E quindi anche sta cosa qui, praticamente, è cambiato il clima, nel senso non nevica più come nevicava una volta, tende a nevicare sempre di meno, come diceva anche il nostro amico Luchino prima, nevica in periodi storici dove non dovrebbe nevicare, come è successo ad esempio a Pasqua in Abruzzo. Questo è sintomo, insomma, che qualcosa non va, che qualcosa è cambiato. Ovviamente si passa da un clima, come si diceva, freddo a un clima caldo eccessivo. E ora passiamo a un pezzo che ha portato la nostra amica Alice. Nel frattempo, provo a chiamare il nostro amico Matteo con i potenti mezzi di Pirate Radio. E poi torniamo qui sempre in diretta. Questo è sempre solo Jolly Roger. Sleep on your toes, run around the street. You got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed. Then moving and silently downwind and out of sight. You got to strike when the moment is right for that thinking. Be trusted by the people that you lie to, so that when they turn their backs on you, Yes, people, siamo tornati, torniamo in diretta. Passiamo il mic al nostro amico Matteo. Ciccio? Salutaci, siamo in diretta. Siamo in diretta. Dove sei? Ah, Ciccio, il nostro amico Matteo, siamo riusciti a pizzicarlo in quel di Venezia, non è Piazza Venezia, giusto Ciccio? Ok, come va insomma questo giretto? Senti, guarda, non ti rubiamo tanto tempo, poi tanto settimana prossima ci racconterai, anzi racconterai a tutti i telescoltatori il tuo viaggetto in quel di Venezia. Allora, noi ti abbiamo chiamato per sapere i tuoi pronostici, visto che sta per terminare quasi il campionato, quindi dicci quali sono le puntate, le partite. Poi? Sì, ci sono, poi? Ok, poi? Ah, quindi na a Napoli tutti a festeggiare? Vabbè, dai, dai, casomai il prossimo viaggetto ce l'andiamo anche noi in quel di Napoli. Va bene, Ciccio, dai, che stai in giro, quindi tante volte non prende il telefono. Facci un saluto, saluta tutti quanti, quelli che ci ascoltano. Chi... E noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao, Ciccio, buon giretto in quel di Venezia. Ciao, Matte. Ciao, ciao. Ciao. Vieni a fare un giro qua giù, da su, non so se si vede bene la luce. Se non fammi chiamare. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, abbiamo appena avuto un collegamento telefonico con il nostro amico Matteo in quel di Venezia, salutiamo anche Marco che sta lì con lui, salutiamo anche Venezia, ma salutiamo anche a questo punto la nostra amica Beatrice di Cologno Monzese e salutiamo tutta Pizza Out, visto che siamo entrati in contatto con questa realtà molto interessante. Il tema della puntata è stato appunto, abbiamo parlato un po' di cambiamenti climatici, un po' di quello che è il riscaldamento globale di tutti, non abbiamo parlato di tante altre cose per anche un po' di mancanza di tempo, di organizzazione, chi più ne ha più ne metta. È stato quello che è passato, è stato un ponte lungo, è stato il 25 aprile, si è festeggiata la ricorrenza della liberazione con diverse iniziative in diverse città, non solo a Roma ma un po' in giro per tutta Italia. Ci avviciniamo a un altro ponte lungo nel quale festeggiamo la festa di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici, perché pari diritti per pari lavoratori. E passiamo a un pezzo che ci è molto caro, visto che insomma è stato il periodo storico è quello che è, e poi ritorniamo in diretta continuando la nostra puntata. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ed era rossa la sua bandiera, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ed era rossa la sua bandiera, come il sangue che versò. The blood and the flame. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ed era rossa la sua bandiera. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, appunto abbiamo, ricordiamo quelle che sono state i weekend lunghi passato con il 25 aprile e questo nuovo del 1 maggio, festeggiamo tutti i lavoratori e, tutti i e tutte le lavoratrici per pari diritti e pari dignità. Detto questo ripasso il nostro amico Luca, che ovviamente non potevano che mancare, visto che abbiamo sentito con i potenti mezzi di Pirate Radio, abbiamo sentito il nostro amico Matteo che si trova in quel di Venezia e ci ha fatto i suoi pronostici. Io come sempre mi raccomando con tutti gli ascoltatori che se giocate e se magari azzeccate anche le partite che il nostro amico Matteo ci segnala, noi siamo sempre in qui di via Levanna numero 11 al Brancaleone. Bussate con i piedi perché vuol dire che sarete ben accetti. E torniamo al nostro amico Luca, alle sue offerte. Offerte supermercati Oasi, Tigre e Tigre Amico. Pringles Texas BBQ a 1,82 euro. Coco Pop. Coca Pepsi. Coco Pops 90. Okay. Olio di palma Monini a soli 1 euro. Queste qua vedo. Stop, erano queste le offerte. E passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo in diretta, perché piano piano ci avviciniamo alle 18 e termina quel che è Jolly Roger. Bar Mariachi, Machuca Records, Producciones Vikingas, el maestro Manu Chao con el tete de rumba cana. Olvídate las penas y cántale a la luna. Cuando me pongo yo a pensar lo que me queda por caminar después de lo que he vivido ya, y ahora mismito voy a contar. Y hay alegrías y hay decepciones, hay muy buen fondo en los corazones de la gente que a mí me acompaña cuando compongo yo estas canciones. Déjame que se lo cante, que yo a la gente es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la brasa, la plaza que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, ser pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Hay que la vida son dos días. Así que cántale, tú que puedes niño grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con Manu Chao. Cántale, tú que puedes niño grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con Manu Chao. Que se lo cante que yo a la gente, se ha pasado un futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera. de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. A que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. A que la vida son dos días y uno y medio llueve. Torniamo in diretta, ultimi minuti per noi, ma ovviamente siamo arrivati al momento delle nostre consuete rubriche. Passo il mic al nostro amico Luca. Ricordo delle terme. Quando mi scappava la pipì, era un fiuggi fiuggi generale, ma non riuscivo a prenderla. Il cognac al caffè non mi sembri molto corretto. Si sdraia sui binari della tratta ferroviaria Palermo-Napoli. Muore con 8 ore di ritardo. Ho finito le battute che avevo in serbo. Ora comincio con quelle in croato. E queste erano le nostre battute, a meglio, le battute di Luca. E passiamo all'ultimo pezzo e poi torniamo ai saluti. Senza tutte quelle stupide, noiose, luride emozioni, avrei già fatto un sacco di milioni di sogni migliori. Quelle solite, ridicole, carine, vuote, sdolcinate, frasi fatte sì ma fatte male. Non dormo più, alcune sere mi intristisco un po', ma non capisco, boh. E giro come una trottola, come un calcio in culo, come un satellite in orbita, come una luce in mezzo al buio. Faccio quello che sento, ma mica mi diverto. L'ultima volta che ho sorriso ero in un palazzetto. Io non lo so che succede quando resto solo e mi perdo dentro di te. Come andarsene in giro di notte a cercarsene. Io non lo so quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me. E mi fai stare peggio e tremendo, sparisco ma non per te. Che stai nel primo disco e nel secondo disco, ma sai com'è. Sì, ma basta con i viaggi nella testa, le allucinazioni. Voglio fare un sacco di milioni di errori, ma nuovi, mentre gli altri scoloriscono, ma non spariscono. E giro come una ventola di un ventilatore, come ali di una libellula, come di notte un girasole. E spreco tanto tempo, ma mica mi lamento. L'ultima volta che ho sorriso ero sul pavimento. Io non lo so che succede quando resto solo e mi perdo dentro di te. Come andarsene in giro di notte a cercarsene. Io non lo so quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me. E mi fai stare peggio e tremendo, sparisco ma non per te. Che stai nel primo disco e nel secondo disco, ma sai com'è. So quante volte ho girato di notte perdendomi, però scomparire è più facile che riapparire. Io non lo so quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me. E mi fai stare peggio e tremendo, sparisco ma non per te. Che stai nel primo disco e nel secondo disco, ma sai come.